E allora, come annunciato, torniamo in diretta, stiamo ospitando Margherita dell'MFPR di Taranto. Ciao, ci senti? Ciao, ciao a tutte. Ciao Margherita. Senti, ti abbiamo contattata perché so che voi come MFPR avete seguito appunto questa strage annunciata di Barletta e volevamo chiederti se hai voglia, insomma, di raccontarci un po' com'è andata, come sono state quelle giornate, che tipo di contatti avete avuto in quell'occasione e magari se come procede adesso, se state ancora seguendo la vicenda. Sì, chiaramente stiamo seguendo e anzi diciamo che partiamo da oggi. Oggi è prevista, inizierà alle 20, una fiaccolata diciamo organizzata da cittadini di Barletta. Come dire, per farvi capire il clima che c'è ora a Barletta, una fiaccolata è chiaramente abbastanza pacifica, anzi no, proprio come tipo di manifestazione, sì, abbastanza innocua. Beh, nonostante che sia così, addirittura ieri c'è stato a un certo punto un tentativo di impedire anche questa fiaccolata con sia da parte della chiesa, cioè diciamo della parte gerarchicamente più in alto della chiesa, perché invece no, a livello di c'era una parrocchia che per esempio non aderisce a questa fiaccolata, ma da parte della gerarchia della chiesa e da parte dell'amministrazione comunale del sindaco di Barletta c'era stata un'alzata di scudi contrapponendo alla fiaccolata di stasera una veglia di preghiera che poi alla fine c'è stata una specie di compromesso per cui dovrebbero farsi tutte e due. Questo no, per capire il clima che c'è a Barletta, sì, che si è ben visto proprio il giorno dei funerali. Cioè, il giorno dei funerali noi siamo arrivate quando ancora la piazza dove c'era diciamo no, la cerimonia funebre ancora non era molto piena. Però appunto già era visibile il contrasto che c'era, cioè da una parte c'era come una specie di fiume, no? Di tanti mini cortei che dalle strade adiacenti alla piazza arrivavano lì ed erano soprattutto ragazze, soprattutto donne, soprattutto lavoratrici e anche delle altre fabbriche tessili o anche calzaturieri. In particolare c'erano le operaie di una fabbrica calzaturiera che sono in Cento e che anche diciamo forse una delle poche dove non c'è il lavoro nero, dove si rispetta il contratto. Ma loro stesse lo dicevano, no? Che la loro era un po' una realtà anomala rispetto invece alle decine, si parla di una almeno di 50 diciamo fabbrichette tessili che ci sono lì a Barletta e che sono più o meno del tipo di quella dove lavoravano le quattro operaie. Quindi c'era da un lato no, questa diciamo, grossa presenza di ragazze, di donne, ma poi no, anche di tanti cittadini, famiglie, tanto che diciamo che si è arrivati poi in piazza proprio ad essere più di 10.000, però c'era anche tanta gente nelle strade vicine. E invece c'era questa diciamo organizzazione quasi diciamo burocratico oppressiva, fatta dalle gerarchie ecclesiastiche che come se voleva imporre un silenzio, voleva imporre chiaramente una linea di diciamo di attenuare qualsiasi rabbia, qualsiasi ribellione, denuncia, no, contro quello che era successo, tant'è che insomma era anche ridicolo in un certo senso, nonostante la tragicità del momento, che ogni 5 minuti c'era uno dei vescovi là, delle cose della zona, che diceva al microfono: silenzio, silenzio. Margherita, ma è qui che vi hanno impedito di vedere lo striscione, di far vedere lo striscione, di farlo leggere, di esporlo? Sì, infatti è stato, perché noi l'avevamo prima appeso lo striscione in un punto abbastanza visibile della piazza dove passava molta gente, e a un certo punto è calato questo dirigente della polizia che ha detto che non potevamo assolutamente tenere, dicendo esplicitamente, no, quando abbiamo detto vabbè, perché non possiamo tenerlo, qual è il motivo, no, sta scritto che voi denunciate, no, gli affari, no, contro gli affari e le complicità eccetera. Chiaramente c'è stato uno, si può dire, scontro, perché lui ha cercato di strapparlo, di prenderlo, di sequestrarlo. Io gli ho anche afferrato il braccio finché non l'ha mollato, mentre un'altra compagna lo tirava allo striscione, e in effetti l'ha salvato. Finché non ha mollato, gli tenevo il braccio. Cosa. E quindi, ma è stato soprattutto il fatto che appunto era isolatissimo e quindi ha dovuto poi mollare, però insomma, no, abbiamo fatto questa, diciamo, messa in scena, cosa. Però ecco, diciamo che un attimo solo che sta, sì, sì. Sì, scusa, che c'era disturbata durante una riunione, no, dicevo che contrasto poi è aumentato via via verso la fine della cerimonia, perché proprio verso la fine, quando vabbè, chiaramente da un lato si è alzato un grandissimo applauso di tutta la piazza verso, cioè quando le bare stavano andando via, ma nello stesso tempo, proprio in quel momento, sono apparsi altri striscioni che dicevano: e ora vogliamo la verità, e un altro che diceva che chi fa il dovere, ora non ricordo bene, però diceva praticamente, no, chi fa il suo dovere ha colpa, mentre insomma chi non lo fa non gli succede niente. Sì. La cosa poi è andata ulteriormente crescendo perché una parte della gente, insomma più di un centinaio, si è spostata poi verso il municipio per denunciare il sindaco, per dire al sindaco: te ne devi andare, dimettiti, e tutte anche il resto dell'amministrazione comunale. E qui effettivamente ci sono stato un momento di forte contestazione, anche con parole insomma giustamente pesanti: assassini, bastardi, eccetera. Ma questo, come dire, questo contrasto è visibile anche nei giorni precedenti, no? Perché c'era stato questo anche arrivo di alcuni rappresentanti istituzionali, cosa che c'è stata chiaramente anche il giorno del funerale. Sì, che hanno fatto finta di accorgersi in quel momento, sì, che c'erano delle situazioni di lavoro non tanto regolari, diciamo. Quindi diciamo, la tua corrispondenza ci aiuta anche invece a mettere in luce la partecipazione a questa drammatica vicenda, riguarda anche lavoratrici, come hai detto tu, di altre aziende tessili che comunque... Sì, no, sì, ma infatti su questo c'è stato anche da parte, no, di molta stampa nazionale una vera e propria, come dire, operazione di nascondere la realtà e di imbrogliare la come situazione. Sempre, insomma, come niente sempre, di nuovo. L'aspetto mediatico lì per lì viene reso più forte possibile, poi sottaciute tutte le ragioni. Aiuta a gestire la situazione in modo non... Senti Margherita, noi ti ringraziamo, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione e grazie tante di questa testimonianza, ci piacerebbe comunque sentirti, poi magari ne parliamo a voce non ai microfoni e nelle prossime settimane insomma, sì, per noi seguire anche... tra l'altro pensiamo sicuramente per l'anniversario, per il 3 novembre, di andare, ma anche di vedere prima se è possibile. Vabbè, lì abbiamo preso alcuni contatti con alcuni operaie, anche delle date sindacali, se è possibile organizzare un'iniziativa come lavoratrici, proprio perché non si celi questo fatto che sono morte operaie, non sono morte delle cittadine o dei passanti, che sono morte delle donne operaie. Certo, certo, va bene. Quindi allora... per il 3 novembre comunque non vorremmo ritornare e vedere, insomma, di proporre un'iniziativa con donne lavoratrici. Benissimo, allora noi magari diciamo inviteremo anche ad aderire a questa tua iniziativa, a questa vostra iniziativa, ci sentiamo nelle prossime settimane a ridosso anche d'accordo, di quella data. Vi saluto. Grazie, ciao, ciao Margherita, ciao. E allora